Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e anche i mensili italiani e stranieri, dove trovare qualche cosa di interessante da leggere, qualche articolo da consigliare per il fine settimana. Allora, cominciamo questa puntata del sabato con un tema abbastanza eterno, così almeno scopriamo da Focus mensile in edicola, numero già di ottobre, quindi siamo anche in anticipo di qualche giorno sul calendario. Perché dico che è un tema eterno? Perché ci si occupa di corruzione. Vabbè, la corruzione, come dire, è un malanno antico, non è nato con l'Evo moderno, ma esistono testimonianze già della storia antica che sono lì a dirci appunto che la corruzione è un vizio, un difetto che colpisce qualsiasi potere, qualsiasi regime in tutte le epoche storiche. Focus prova ad usare il suo approccio scientifico per spiegare la storia e le motivazioni che possono essere alla base della corruzione. L'articolo è "Come si diventa corrotti". Viene spiegato così: è confermato, la corruzione danneggia tutti, ma più è diffusa più diventa vincente. Quindi questo è già un primo dato, per così dire, scientifico, per cui più riesce a diffondersi, più riesce a impiantarsi e più poi può poi autoalimentarsi. Chi ha potere è più esposto. Questo è un altro dato interessante che si ricava dalla lettura di Focus. Nelle due pagine, tra le diverse che compongono questa inchiesta, vi segnalo infatti questo esperimento che è stato condotto in due università, una degli Paesi Bassi e una negli Stati Uniti, in cui hanno cercato di capire se c'è un legame tra il potere che una persona ha a disposizione e la sua, come dire, disponibilità o comunque la sua capacità di comprensione nei confronti della corruzione. Hanno fatto delle prove in laboratorio. Ecco, quello che è emerso in buona sostanza è che chi occupa posti di potere, e non dobbiamo pensare solo al potere politico, sembra essere più indulgente, cioè più portato a giustificare la corruzione, naturalmente non solo in sé, ma in un certo senso anche per gli altri. Vi racconto qualcuno degli esperimenti che viene spiegato da Focus. Evadere il fisco, ad esempio, tema per noi italiani abbastanza importante. Come giudicate una persona che evade le tasse? E se lo faceste voi stessi? Sono state le domande. Risultato: i sottoposti, cioè coloro che non occupavano posizioni di potere, sono stati più severi nel giudicare se stessi piuttosto che nel giudizio rispetto agli altri. I capi hanno ribaltato i criteri di giudizio, sono stati più indulgenti con se stessi, più severi con gli altri. Quindi chi occupa un posto di responsabilità, di potere, poi tende a giustificare, forse perché conosce magari di più le spinte che si possono subire, ma anche probabilmente per una sorta di adattamento forse a delle circostanze. Vado avanti, vi ne propongo un altro: correre oltre i limiti di velocità. Un altro tema che per noi italiani è molto noto, sapete che il primato delle multe, lo abbiamo scritto anche di recente sul Sole 24 Ore, continua a essere quello legato appunto al superamento dei limiti di velocità. Hanno sempre fatto i due gruppi, i cosiddetti sottoposti, cioè coloro che non occupano posti di potere, posti di responsabilità, e coloro che invece occupano posti di potere. Dovevano giudicare i due gruppi quanto fosse immorale una persona che superava il limite di velocità in auto perché era in ritardo a un appuntamento, e dovevano anche giudicare quanto fosse immorale se l'avessero fatto loro. I sottoposti hanno assegnato un giudizio di moderata immoralità sia a sé che agli altri. I capi sono stati più severi ancora nel giudicare gli altri rispetto a quanto hanno fatto con se stessi. La cosa, forse l'esperimento più rivelatore di tutti, è questo terzo che vi racconto, ce ne sono poi altri ma vi rimando naturalmente a Focus. Barare ai dadi. È stato chiesto a questi due gruppi di lanciare dei dadi e poi di comunicare il risultato ai ricercatori che stavano in un'altra stanza. Più punti facevano e più avrebbero ottenuto biglietti di una lotteria. I sottoposti sono stati mediamente più onesti, mentre i capi cosiddetti hanno barato di più. In qualche modo è la considerazione che viene presentata da Focus: il fine giustificava i mezzi. E infatti, come poi si legge nell'articolo, chi detiene il potere non solo in qualche modo abusa del sistema, ma talvolta proprio si arroga il diritto di farlo. Il potente ha una sorta di culto della propria personalità e quindi può permettersi determinati atti proprio perché detiene la forza, detiene uno stato sociale alto, si sente legittimato a trasgredire le leggi e la morale comune, a ricevere e fare favori. Naturalmente, quando poi questo fenomeno della corruzione viene considerato su scala mondiale, poi si scoprono anche i suoi effetti nefasti. Ad esempio, ricorda sempre Focus, tra il 70% e l'80% degli aiuti internazionali ai paesi poveri è calcolato che si perda proprio nei rivoli della corruzione, e che questa corruzione sia spesso fagocitata dalle organizzazioni internazionali che sarebbero lì a gestire i soccorsi, ma che evidentemente hanno molte occasioni, molte tentazioni, come si dice. Ancora, Davide Torsello, che insegna antropologia culturale a Bergamo, spiega appunto che la piaga della corruzione è sempre stata presente nella storia, però viene favorita solitamente dai sistemi di governo più centralizzati, cioè in mano a pochi privilegiati. Più il potere è di pochi, più è facile che la società si riveli corrotta. Allora, cambiamo invece decisamente argomento. Il tema della corruzione è, come dicevamo, assolutamente eterno. Poi trovate su Focus naturalmente anche casi storici che rimandano appunto alla corruzione. Un altro tema eterno, la prossemica, la distanza che si instaura nelle conversazioni tra uomini e donne. Geppi Cucciari, che ha una rubrica su Donna Moderna, prova a scherzare sulla distanza e cosa ci può rivelare la distanza che intercorre tra un uomo e una donna durante una conversazione. Vi leggo qualche brano di questa divertente rubrica. Dice: per orientarsi nella giungla delle emozioni si può fare ricorso all'efficace, seppure poco scientifico, linguaggio del corpo. Come capire se un uomo è interessato a voi? Chiede la Cucciari. Il primo elemento da osservare è la distanza. Se vi parla a meno di 45 centimetri sta vivendo un'attrazione fatale. Se si assesta, spiega sempre la Cucciari, ma naturalmente non siamo più su Focus ma su Donna Moderna, quindi non abbiamo evidenze scientifiche di questo, spiega sempre la Cucciari che se si assesta sui 45 centimetri sta cercando di entrare in confidenza, ma è indeciso. Se sta oltre il 1,20 m, beh, fatevi delle domande e datevi delle risposte. Peggio che mai se frappone fra il suo corpo e il vostro un bicchiere di vino, chiaro segnale non solo di inclinazione all'ubriachezza, ma altresì dalla necessità di tenervi lontane. Se invece, mentre vi parla, infila i pollici nella cintura o nelle tasche dei pantaloni, allora dimostra un chiaro impulso ormonal adolescenziale. E le donne come dimostrano accessibilità? La Cucciari, nelle sue poche righe, si occupa anche di questo. Dice: dimostriamo accessibilità con gesti da vera signora, levando un pelucco dalla camicia, sistemando il bavero della giacca, rimuovendo un capello dal maglione. Ma, conclude scherzosamente Geppi Cucciari, più che di disponibilità, qui io parlerei di un principio di pulizie pasquali. E allora restiamo ancora un istante su Donna Moderna prima di cedere la linea alle informazioni sul traffico. Con Donna Moderna trovate un dizionario della crisi. Ora, come sapete, in questi anni il Sole 24 Ore in primo luogo e molti altri giornali anche hanno proposto dizionari della crisi economica. Donna Moderna ha deciso di dedicare un dossier alle parole chiave dell'economia per capire la crisi. Allora, se proprio faticate a orientarvi nelle cose che poi tocca seguire tutti i giorni per capire dove stiamo andando, se le cose miglioreranno o peggioreranno, ecco, può esservi utile questo approccio studiato da Donna Moderna, un approccio in cui si prendono in esame poche parole chiave e si cerca appunto di spiegare anche e soprattutto le correlazioni al loro interno. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo ascoltato nella prima parte queste scherzose considerazioni di Geppi Cucciari su Donna Moderna sulla corretta distanza o su come, diciamo, la distanza tra un uomo e una donna può aiutare a capire se c'è un interesse reciproco tra i due oppure invece c'è un interesse assolutamente professionale, insomma non di tipo sentimentale. Molto più seriamente si occupa sempre di uomini e donne, cioè di questioni di genere, Newsweek questa settimana, che ha una copertina che potremmo tradurre con molta approssimazione: uomini svegliatevi, forza uomini, il maschio tradizionale è una specie in pericolo, così recita la copertina di Newsweek. Il tema naturalmente è di quelli abituali, oserei dire eterni, però contiene al suo interno in questo articolo, in questo lungo articolo che è fatto da Andrew Romano e da Tony Docupil, una serie di indicazioni anche di numeri che aiutano a capire che cosa si intende, che come va diciamo spiegata questa presunta crisi del maschio. Innanzitutto c'è la considerazione che si moltiplicano, qui si parla degli Stati Uniti naturalmente, ma potremmo dire si moltiplicano un po' in tutto il mondo, i volumi di sociologi, antropologi, studiosi delle società che ci avvisano di come il maschio, l'essere maschile proprio sia in difficoltà, in declino per qualcuno, ci sia una vera e propria guerra ai ragazzi o addirittura c'è un volume in cui di recente negli Stati Uniti si è detto che è ormai prossima la fine degli uomini nel senso delle persone di sesso maschile. Questo che speriamo sia una profezia assolutamente sbagliata naturalmente, però prende le mosse da una serie di considerazioni che sono considerazioni della vita di tutti i giorni e dello svolgimento del progresso che è intervenuto negli ultimi decenni. Ad esempio ricordano su Newsweek che la percentuale di uomini nella complessiva della forza lavoro era del 70% nel 1945, parliamo sempre degli Stati Uniti, è scesa adesso al di sotto del 50%. Tra l'altro nelle città maggiori sostanzialmente c'è una coincidenza in tutte le maggiori città degli Stati Uniti, per cui hanno più probabilità anche di guadagno, una probabilità calcolata intorno all'8%, le donne single e naturalmente, ohimè, senza figli, ma questo è un tema che poi viene affrontato anche molto bene nell'articolo di Newsweek. Le donne però single, senza figli e in giovane età hanno possibilità di guadagnare, ripeto, l'8% in più degli uomini, diciamo, in parità di condizioni. E poi naturalmente ci sono le questioni legate ai comportamenti violenti più frequenti naturalmente nei maschi piuttosto che nelle femmine, quindi l'alcolismo, gli stessi suicidi, la perdita delle case, la violenza, insomma questo tipo di fenomeni che sappiamo essere più direttamente, più statisticamente collegati agli individui di sesso maschile. Si spiega poi nell'articolo dal 1950 l'immagine della donna americana è mutata più volte, mentre l'immagine per così dire del maschio non ha subito grandi cambiamenti e quindi si è costretti un po' a reinventarsi di volta in volta di fronte alle modifiche che intervengono nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni. Si è costretti perché, come spiega lo stesso articolo, la guerra tra i sessi, la guerra tra i generi non è un gioco a somma zero. Se gli uomini perdono, poi perdono anche le donne e i bambini e quindi man mano che le donne assumono magari posizioni di potere, posizioni maggiori, questo comporterà anche una necessità di occupare diversamente le posizioni sul lavoro appunto da parte degli uomini. Molto interessante in questa inchiesta di Newsweek è anche una sorta di catalogo dei modelli maschili, addirittura dal prima dell'unità, da prima degli Stati Uniti, quindi prima del 1776, fino ad arrivare ai giorni nostri. Vengono proposti una decina di tipi maschili che passano dal patriarca per evolvere poi nell'artigiano eroico, cioè colui che è un po' l'artefice della sua fortuna, il periodo diciamo fino al 1830, e poi il self-made man, l'uomo che riesce a costruire le proprie fortune da solo, che ispira secondo questa ricostruzione di Newsweek quasi tutto il 1800, per passare al periodo della rivoluzione industriale, quindi l'eroe della tuta blu tra il 1890 e il 1910, poi il catalogo della famiglia e poi, più interessante perché via via più vicino a noi, dal 1945 agli anni 60 l'uomo d'azienda, che è rappresentato anche graficamente con un signore distinto in giacca e cravatta, poi un ritorno più sui toni scanzonati del playboy nel ventennio che viene individuato tra il 1960 e il 1980, il capitalista tagliagole, questo è proprio il testuale che viene indicato come tipo maschile del 1980, poi l'uomo new age, quindi un uomo più sensibile, più disponibile, e al momento presente viene indicato il nuovo macho che viene più o meno identificato nella figura di Brad Pitt. Non sappiamo se questi modelli possano valere per tutti, sicuramente è una semplificazione molto molto sintetica, però l'articolo, il lungo articolo di Newsweek ha sicuramente un suo interesse. Parliamo di uomini, andiamo a parlare invece di bambini. Forse se qualcuno dei nostri ascoltatori ha seguito le puntate della settimana scorsa ricorderà che c'era una polemica su Sorrisi e Canzoni TV lanciata dallo Zecchino d'Oro, perché si diceva ci sono programmi che vengono fatti per i bambini, ad esempio lo Zecchino d'Oro, programmi che vengono fatti con i bambini ma che non sarebbero rispettosi dei bambini. Questa era l'accusa appunto ospitata da Sorrisi e Canzoni. A questo tema dedica la sua pagina di confronto tra pareri Famiglia Cristiana, nella rubrica Il Fatto e le Opinioni, la cura Antonio San Francesco. La domanda è: ma cantare in TV fa male ai piccoli? E ci sono due persone che rispondono, l'una è Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, l'altro è Fulvio Scaparro, un altro psicoterapeuta. Entrambi si occupano della condizione dei bambini. È interessante notare che al di là delle sfumature, entrambi gli esperti sembrano, diciamo, almeno giustificare la polemica lanciata dallo Zecchino d'Oro, cioè ci sono effettivamente dei rischi in questa spettacolarizzazione eccessiva dei bambini. Ma vi leggo qualche brano. Dice la Parsi: le emozioni del divismo sono difficili da sostenere per gli adulti, figuriamoci per i ragazzi. Un successo esaltante ma breve, che effetto ha sull'autostima del bambino? Questo dobbiamo chiederci noi adulti, a cominciare dai genitori, che spesso sono i primi a spingere i propri figli a esibirsi. Anziché spettacolarizzare il successo, bisognerebbe forse rendere accessibile nelle scuole, in altri centri, dei laboratori di teatro, musica, danza, dove i ragazzi possano sì coltivare le passioni, ma non bruciare le tappe. Anche Scaparro più o meno segnala che il pericolo viene più spesso dai genitori, perché dice: i bambini fanno bene a cimentarsi con il canto, bisogna però evitare di dar loro l'illusione del divismo e del successo a ogni costo. I responsabili qui non sono tanto i bambini quanto i genitori. Gli adulti infatti sembrano voler far passare l'infanzia dei bambini il più velocemente possibile, facendo saltare loro ogni gradualità. L'esempio lo vediamo nei campetti di calcio, dove i nostri figli vogliono soltanto giocare per divertirsi tra loro, mentre i genitori tifosi, quando non arrivano ad azzuffarsi sugli spalti, incitano i bambini con il risultato di esasperarli. Quindi sostanzialmente, pur non magari condividendo appieno né la polemica né i toni, però entrambi gli esperti segnalano, come dire, i rischi connessi all'utilizzo spettacolare dei bambini nei programmi televisivi. Direttamente collegato, tanto per chiudere la puntata, con le giovani generazioni, l'inchiesta che sta nelle pagine successive e che ci segnala quanto poco leggano i giovani, e qui però forse quanto poco riusciamo noi a interessarli a leggere, a interessarli alla lettura. I libri venduti in Italia, come sapete, non sono molti, quelli letti sono sicuramente ancora meno. Trovate tutti i dati su Famiglia Cristiana. Vi segnalo solo che il 64,7%, cioè 2 su 3, sono gli 11-14 anni che hanno letto almeno un libro in 12 mesi per motivi non scolastici. Quindi ci sono dei motivi anche di speranza, di buona speranza sulla capacità di apprendere il gusto della lettura anche da parte delle giovani generazioni. Il tempo a nostra disposizione per oggi è scaduto. Io vi do appuntamento a domani alla stessa ora, sempre con Magazine 24. Grazie ad Anita Panizza, questa mattina in regia insieme a Carmelo Lauricella. Anita mi ha anche aiutato a preparare questo programma. A domani.